Salve, questo qui è il sesto incontro radiofonico tra Pasquale di Radio Big World e tutte le persone, ogni persona che lo vuole ascoltare. L'argomento di oggi, sempre nell'idea dell'opportunità di mescolare acqua e vino, tratta delle file e delle liste d'attesa, che in realtà sono una mescolanza di interessi dei componenti delle file e delle liste d'attesa. Se osserviamo una fila, quello che è avanti a noi ci sembra che sia il nostro antagonista. Se non c'era lui, io ero più avanti. Se non c'era anche quell'altro, la fila non c'era. Ma questa è un'osservazione estremamente superficiale, quindi non porta a eventuali soluzioni del problema delle file oppure delle liste d'attesa. Cerchiamo di analizzare in maniera critica. Critica vuol dire, nel mio modo di vedere, utilizzare la ragione per capire come mai avviene un fenomeno e non osservare l'apparenza del fenomeno. Allora, perché ci sia una fila o una lista d'attesa, bisogna che ci sia un'offerta di qualcosa. Bisogna che ci sia una richiesta, perché se c'è l'offerta e non c'è la richiesta, la fila non avviene. E bisogna che ci sia anche un gestore che collega la richiesta, quindi la fila, la lista d'attesa, all'offerta. L'offerta è la circolabilità sulle autostrade, l'opportunità di eseguire un'analisi clinica che riguarda la salute del proprio corpo. Ecco, quindi queste sono le file e le liste. Io vorrei ora capire cosa vuol dire offerta, cosa vuol dire richiesta, cosa vuol dire gestore, e quindi mescolare questi tre elementi fondamentali nella vita di tutti i giorni, che è fatta di file e di liste, per capire cosa si fa. Allora, l'offerta è qualcosa che tante persone desiderano avere, desiderano conoscere, desiderano toccare, desiderano incontrare, desiderano utilizzare. Questa è l'offerta. Poi c'è la richiesta, che siamo noi, che si vuole accedere a quella offerta. Se siamo tanti che vogliamo accedere a quella offerta, si forma la fila o la lista di attesa. Chi gestisce questa relazione che avverrà tra la richiesta e l'offerta? La gestisce un gestore. Gestore vuol dire uno che gestisce, no? Quindi la gestisce un gestore. E avviene quasi sempre che il gestore è proprietario oppure dispone dell'offerta che tutti noi desideriamo contattare, avere, realizzare. Per esempio, prendiamo la fila odiosa in macchina sull'autostrada. È successo qualcosa, c'è lavoro in corso, c'è un disguido di circolazione e noi siamo lì a fila e suona il clacson perché quello davanti non ha fatto il passettino che ha fatto quello davanti a lui, come se quel passettino o quello davanti fosse il responsabile della fila. No, il problema è nel gestore, neppure nell'offerta, è nel gestore, che nel caso dell'autostrada non ha fatto offerte differenziate. Perché se gli autotreni viaggiassero sul ferro invece che sulla gomma, sull'autostrada ci sarebbe una viabilità molto meno confusionaria e densa, e le file diminuirebbero notevolmente. Allora, chi ha fatto la scelta di far muovere le merci sulla gomma, sul camion per intendersi, invece che sulla rotaia, cioè attraverso il mezzo del treno, è il responsabile di quella fila, e a noi non ci viene in mente che è lui, perché ci poniamo l'attenzione sulla macchina che sta davanti a noi e che non si è smossa di quel mezzo metro quando la fila si è un pochino allentata. Quindi viviamo una situazione di estrema illusione, ci arrabbiamo, ci stizziamo, ci giudichiamo inetto chi sta davanti a noi, invece di giudicare, di stizzirsi, di arrabbiarsi con chi è inadeguato per far funzionare quel sistema, che è il sistema dei trasporti. Guardiamo anche la cosa da un altro punto di vista. Mi devo fare la TAC, mi ha detto il medico, perché può darsi, non è molto probabile, ma è possibile che... Allora, per precauzione facciamo una TAC. E la delusione arriva il momento in cui ti presenti al CUP della USL, ti dico, sì, si fa questa TAC, bene, vuole andare là a 50 km da dove siamo ora, oppure preferisce farla tra 5 mesi? Grande dramma. Come fa ad andare a 50 km? Io bisogna mi faccia accompagnare da qualcuno, non guido, è un problema grosso. Facciamo tra 5 mesi. Se prima non è possibile, si fa un lamentino davanti all'operatore, ma sa, io vorrei andare un po' prima perché può essere una cosa grave la mia malattia, quindi l'attacco mi può salvare la vita, e quindi non va bene che si trascuri così il cittadino. L'operatore li sente sempre questi discorsi, e quindi in maniera opportuna a lui entrano da un orecchio e, come si dice, escono dall'altro. Anche lì si è individuato un nemico che non è il nostro nemico, una persona che non è colpevole, però è la persona più facile su cui sfogare la rabbia incontrollata, e è l'evento più facile per non risolvere il problema, perché il problema, come si capisce bene dopo aver riflettuto un pochino su questo argomento, il problema non è l'operatore, non è la macchina della TAC, non è tutti quelli che hanno bisogno di fare la TAC prima di me, che se non ci fossero mi toccherebbe subito. Il problema è la struttura dove un gestore ha detto: invece di acquistare 10 TAC, se ne acquista 3, e si serve tutti i cittadini sempre, però invece che in una settimana si servano in un mese, in 3 mesi, in 5 mesi. Dice, allora il colpevole è lui? No, non è lui. Perché, come tutti sappiamo, la sanità italiana, che è pagata, che va avanti con le tasse, l'accise, eccetera, tutti i balzelli che il mondo amministrativo della politica ci mette addosso, che la sanità è pagata, è sostenuta, gli ospedali ci metto dentro anche, questo è un elemento importante, è pagata e sostenuta dalla fiscalità generale. Allora, chi è il responsabile della mia TAC che avverrà tra 6 mesi invece che tra 6 giorni? È chi gestisce la fiscalità generale. Combinazione, se si ritorna all'autostrada e ci si avvicina all'idea del responsabile della fiscalità generale, si trova sempre la stessa struttura e le stesse persone. Allora, cosa si può dire ancora? Se si pensa alle file, tanti esempi vengono in mente: vai, pronto soccorso, Dio, mi sono rotto un braccio, mi dole, e quello lì è avanti a me, ma come fai? Io ho bisogno che subito mi assistano, mi ci vuole la morfina, mi ci vuole il gesso. Oppure può succedere che sono in fila al Museo degli Uffizi a Firenze, 2 ore d'attesa. Ma come, 2 ore d'attesa? 2 ore? È impensabile con questo caldo maledetto di oggi, mi tocca fare 2 ore d'attesa. E io voglio andare a vedere la nascita di Venere perché mi piace l'arte. Potrei andare all'Accademia, forse c'è meno fila, oppure al Museo Bardini. Però, ma no, non ci voglio, vengo qui perché ho sentito parlare così tanto degli Uffizi e della nascita di Venere che no, io all'Accademia o al Museo Bardini non ci vado. Allora anche qui c'è un responsabile, è quello che attraverso i media ha parlato tanto, ha invogliato tanto agli Uffizi, alla nascita di Venere, perché dietro c'è un risvolto culturale, economico, che fa comodo a quel gestore. Ma quel gestore, a sua volta, da chi è controllato, io vorrei dire anche manipolato, dal mondo dell'economia nazionale, che si chiama anche mondo della politica. Allora, questo elemento così importante nella vita sociale, che è la politica, cioè le relazioni tra le persone, tra i gruppi, tra le società, ha perso da diverso tempo il suo spirito, il suo animo, la sua ragione di esistere, e purtroppo, come abbiamo visto nei nostri esempi, che per me sono significativi, ma non per tutto ovviamente, ha perso col tempo questo mondo la capacità di fare quello che i cittadini si aspettano da chi gestisce in maniera amministrativa e sociale le loro vite. Quando succede che ci troviamo in fila o in colonnati, oppure ci troviamo in liste d'attesa, cerchiamo di capire bene chi è il responsabile di quella situazione e poi arrabbiamoci e rivendichiamo i nostri diritti riferendoci ai responsabili, non alla persona che ci sta davanti, che è arrabbiata, ingenuamente arrabbiata come lo siamo noi. Ti saluto, se vuoi contattiamoci per chiarire cose che non condivido, che non hai capito perché non mi sono spiegato bene attraverso la radio Big World, e alla prossima, ciao ciao.